nuvolo intenzione, piano B fallito. L'esposizione all'insolenza lascia tramortito ogni vestito di patria, anche in posa plastica. Se l'anticonformismo è poli di una svastica, mediocrità galoppa verso nuovi sentieri. Sento l'influsso negativo e tutti i suoi veleni. Aver ragione non è un premio, resterà in sordina. Si stima che un cambiamento a volte si delinea. Le componenti in gioco mischiano le velleità che rischiano di renderci tutti disoccupati e fieri. Dubbi se vendersi, proteggersi, restare volti anomali dai connotati seri. Un artificio tiene in piedi le colonne portanti, sono dogmi pesanti ma vacillano. Quanti colori sgargianti tra gli estremi di una folla di esitanti che di fronte a me non brillano. E faccio finta che il complesso non mi tocchi, indosso a vita invisibili paraocchi. E spesso resto muto per non perdere le fila di un discorso che mi pare non abbia nemmeno sbocchi. Non c'è rimorso, non c'è tregua, evidenzio a voce piena ciò che non mi va. Ciò che è arido non mi disseta, cerco di assorbire il massimo dal peggio di sta storia qua. Non c'è spazio per ricorrere a metafore ardite, opzioni finite, troppe velleità. Le speranze di cambiare bandite, non mi arrendo all'evidenza ma non vedo cosa c'è al di là. Radicalismo chic, ci corre appresso una voragine, dita puntate, camere spianate, reperibili su un palco sempre acceso, dal limite scosceso ma resiste a queste puttanate. Apologia di furia cieca contro il nichilismo che ci avvolge con un'aura bieca. Se l'istinto porta a credere a brandelli di realtà, mando a fare in culo st'indole anestetica. Sono pronto a cavalcare le mie onde cerebrali come squali che riemergono dal fondo, alla stregua di un esercito di mille sconosciuti che equalizzano gli intenti in un secondo. Ma ci vogliono inseriti nella maggioranza becera che spegne i connettori e poi degenera. Meglio perdere l'orgoglio per eccessi di creatività, non per un'assenza di ingegno. Autoconvincersi che uscire dalla gabbia sia come uno spingersi fuori da quello in cui si crede, senza pensare a chi vede e non vede quel delinearsi parallelo che poi fugge in vetta. Non c'è rimorso, non c'è tregua, evidenzio a voce piena ciò che non mi va. Ciò che è arido non mi disseta, cerco di assorbire il massimo dal peggio di sta storia qua. Non c'è spazio per ricorrere a metafore ardite, opzioni finite, troppe velleità. Le speranze di cambiare bandite, non mi arrendo all'evidenza ma non vedo cosa c'è al di là. La storia si ripete, fotogrammi di una diga di cazzate senza regole concrete. Meno siete ma più appartenete, più ignorate ma più decidete, tanto non ne pagherete che una conseguenza marginale. Piange il piatto ma il coltello affonda lame senza mai esitare, e si tange l'asse dell'assurdità riproposta sotto forma di routine da emulare. Restarci male un attimo, risollevarsi un obbligo, ma barcollare a bordi è visto come un male tossico. Camminate a testa all'aria poi che meritate tutto, visto che la vita è un mozzico. Non c'è cecchino che vi centri, intenti in quei passi dell'oca e salti della quaglia, piuttosto dritti come un treno che deraglia sotto al mare dei liquami, dei concetti più dementi. Disobbedienze tra questi stirovi, prove del 9, lasciare ciò che non si muove. Chi sta contenta geme, non trovi chi invece pensa viene seppellito in mezzo a grida sceme. Non c'è rimorso, non c'è tregua, evidenzio a voce piena ciò che non mi va. Ciò che è arido non mi disseta, cerco di assorbire il massimo dal peggio di sta storia qua. Non c'è spazio per ricorrere a metafore ardite, opzioni finite, troppe velleità. Le speranze di cambiare bandite, non mi arrendo all'evidenza ma non vedo cosa c'è al di là.